Per quanto riguarda il petrolio, l'effetto lei lo vede sul prezzo. Mentre venivo qua leggevo che il Brent è andato a $120, quindi sicuramente la crisi libica gioca un ruolo in questa improvvisa fiammata dei prezzi, ma non ha nulla a che vedere con la sicurezza dell'approvvigionamento, perché è vero che l'Italia importa molto, molto petrolio dalla Libia, ma questo petrolio è abbastanza facile da rimpiazzare con altri fornitori. Beh, poi c'è sempre il fenomeno della speculazione che naturalmente amplifica i fenomeni reali. Qui c'è un fenomeno reale che sono 1.200.000 barili in meno del mercato, che non è una cosa enorme, però naturalmente contribuisce. E poi c'è un senso di incertezza generale nella regione che può essere un, così, il grilletto che fa partire la speculazione. Io, se lei mi avesse chiesto per darle una cifra, no? Eni ha fatto il piano 2011-2014 immaginando un prezzo di $70, quindi noi su questi $70 facciamo i nostri conti, facciamo i nostri investimenti, eccetera. Per carità, noi tendiamo forse a essere un po' pessimisti dal nostro punto di vista quando parliamo di queste cifre, però credo che nessuno di noi si aspettasse $120 al barile così repentinamente.